giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati, ancora buona domenica da Maria Spezzi e Francesca Vigori. Si alza l'asticella dell'allerta meteo attesa nella notte in regione, che passa da gialla ad arancione. Si tratta del decimo allarme in un mese e mezzo, eventi che mettono a dura prova la tenuta idrogeologica dei territori a rischio. Il servizio. Passerà da gialla ad arancione l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per la perturbazione in arrivo in regione. Le criticità maggiori potrebbero situarsi nella zona della pedemontana pordenonese e della pianura friulana. Impossibile, spiega Chiara Calligaris, geologa all'Università di Trieste, prevedere l'ubicazione delle celle temporalesche in pianura, mentre in montagna possono seguire l'andamento delle valli. Il passaggio ad arancione, la prima volta quest'estate, una rarità, di solito avviene in periodo autunnale, non comporta automaticamente danni maggiori rispetto alle altre 9 allerte gialle, diramate fin qui tra luglio ed agosto, come spiegano dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA. L'arancione scatta infatti quando il rischio è collegato non tanto al temporale, quanto alle piogge persistenti su un territorio, che possono dare problemi idrogeologici o idraulici. Situazioni di criticità si potrebbero verificare nella rete idrografica minore, come i torrenti di montagna, che spesso sono asciutti, per eventuali colate di detriti. Si arriva a questa perturbazione in una situazione assolutamente anomala, indicano dall'ARPA, mai registrate temperature così calde, così a lungo, dopo Ferragosto. Impossibile anche prevedere l'impatto sul Friuli Venezia Giulia basandosi su quanto visto in altre regioni, visto che l'interazione varia da territorio a territorio. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diamo ora uno sguardo al tempo in questo momento sulla regione. Il cielo è nuvoloso su parte del Friuli Venezia Giulia, con ampie aree di cielo sereno, in particolare sulla costa. Le temperature registrate poco fa, Trieste 30 gradi, mare quasi calmo, con temperatura di 27 gradi, a Gorizia 30 gradi, a Udine 28, a Pordenone 27, a Tarvisio 28 gradi, a Tolmezzo 22, a Piancavallo e Forni di Sopra 20 gradi, a Sappada 19, sul Monte Lussari 17 gradi, sul Monte Zoncolan 14, a Lignano 30 gradi, a Grado 28. In queste località la temperatura del mare è di 29 gradi. Nel pomeriggio l'ARPA prevede ancora caldo afoso in pianura e sui monti, specie a ovest, aumento progressivo della nuvolosità e possibili deboli rovesci. Si sposta invece in avanti di qualche ora l'arrivo del fronte di maltempo, che ha indotto la Protezione Civile ad emettere un'allerta presto arancione per possibili conseguenze su fiumi minori, drenaggio urbano e pendii dei forti temporali previsti. La regione sarà coinvolta in modo importante a partire dall'alba di domani, come spiega il meteorologo dell'ARPA, Francesco Sioni. A partire da questa sera avremo i primi temporali e rovesci sulla zona montana, tuttavia l'instabilità principale sarà nella giornata di domani, quando appunto durante il corso di tutta la giornata a più riprese potremo avere rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere anche forti. Le piogge temporali interesseranno tutta la regione, le piogge potranno essere in genere intense e localmente anche molto intense, collegate a piogge o temporali stazionari. Sulla costa avremo scirocco moderato con raffiche anche sostenute, mentre sulla zona montana vento in quota da sud. Il maltempo per quanto durerà? La tendenza vede ancora proseguire l'instabilità per martedì e mercoledì, nonostante appunto la tendenza sia ancora piuttosto incerta. Per chi ha le ferie in questa settimana, ci sarà ancora la possibilità di fare bagni di mare? Probabilmente martedì e mercoledì potremo avere della bora sulla costa, che potrebbe quindi determinare un raffreddamento delle acque. Cosa succede alle temperature domani? A partire da domani avremo un calo netto delle temperature e passeremo da delle massime di oggi di 30-33 gradi in pianura a delle massime di domani di 24-28 gradi circa. Il tema dell'accoglienza è sempre d'attualità a fronte dell'aumento degli arrivi di stranieri da oltre frontiera. Nelle città del territorio sono già emerse diverse criticità, con situazioni di pernottamento all'aperto a causa della mancanza di strutture. I sindacati di polizia sollecitano la politica per migliorare il sistema di identificazione e accoglienza, anche con l'ipotesi hotspot. I sindacati di polizia tornano ad alimentare il dibattito già aperto sulla gestione dei migranti della rotta balcanica a Trieste e in tutto il Friuli Venezia Giulia, e lo fanno chiedendo alla politica di procedere con l'ipotesi hotspot che ultimamente sembrava essersi raffreddata dopo le proteste per l'opzione Jalmicco. Lo chiedono con sfumature diverse due dei principali sindacati autonomi, SIULP e SAP. Per il SIULP l'hotspot è imprescindibile e va realizzato a ridosso del confine italo-sloveno, sostiene il segretario di Trieste Francesco Marino. Il suo omologo del SAP, Lorenzo Tamaro, aggiunge che così non si può andare avanti perché le attuali strutture della polizia di frontiera non sono più adeguate ai numeri degli attuali arrivi. L'hotspot è una struttura di identificazione di primissima accoglienza che prevederebbe trasferimenti immediati in altre regioni. Nel 2023 sono passati per Trieste almeno 6.000 migranti. Chi decide di fermarsi rimane in strada senza un posto in accoglienza anche per 3 mesi, denunciano dall'associazione ICS. Dormono in strada e nel silos. Sono 500 in questa condizione a Trieste, 200 nel resto della regione, secondo le stime di ICS. I trasferimenti nel resto d'Italia languono sempre più perché i posti dell'accoglienza scarseggiano ovunque a causa degli sbarchi della rotta mediterranea che sono anch'essi a livelli record. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E anche il neovescovo di Trieste, Enrico Trevisi, in città da 4 mesi, esprime preoccupazione per le gravi carenze nel sistema dell'accoglienza delle centinaia di giovani che arrivano ogni giorno dalla rotta balcanica. È ora di agire, dice. Sentiamo l'intervista. Sì, un fenomeno cronico che necessita risposte adeguate. Oltre a quello che si vede davanti alla stazione, c'è tutta una rete di accoglienza delle persone che sono dentro strutture nelle quali sono accompagnate. E tuttavia tutto questo è insufficiente, si è inceppato il meccanismo dei trasferimenti anche per tutti gli sbarchi di Lampedusa e pertanto qui si stanno ammassando centinaia e centinaia di persone, tante sono in transito in attesa di raggiungere familiari, amici che sono in altre parti d'Italia o dell'Europa. Altri sono qui in attesa magari di qualche documento, però questa situazione sta diventando veramente pesante anche dal punto di vista sociale, igienico, l'aver concentrato tante persone senza un minimo di servizi igienici, di l'accoglienza dignitosa può diventare anche un problema rilevante. Non può essere solo la società civile che si fa carico di questo. E purtroppo a volte sono in transito anche delle famiglie con dei bambini piccoli e su questo dobbiamo veramente interrogarci perché, lo diciamo francamente, dobbiamo fare qualcosa, non è possibile essere soltanto spettatori di tutto questo. I carabinieri di Duino hanno ritirato la patente e denunciato per guida in stato di ebbrezza un 37enne di origini campane, individuato mentre lasciava una festa di addio al celibato. Gli è stato riscontrato un tasso alcolemico 2 volte il consentito, il che comporta conseguenze penali. Stessa sorte per un 37enne di Aurisina, fermato dai carabinieri di Barcola. Anche per lui patente ritirata e denuncia penale. Una notte al museo per una decina di bambini accompagnati dai loro genitori. Niente scheletri di dinosauri come nel celebre film, ma l'arte moderna custodita al Museo Civico d'Arte Ricchieri di Pordenone. Sacchia, pelo e tappetini, la nanna si fa al museo. Ieri sera il Museo Civico d'Arte di Pordenone ha ospitato una visita davvero speciale. Una decina di bambini tra i 6 e i 10 anni accompagnati dai loro genitori che hanno trascorso l'intera notte nelle sale di Palazzo Ricchieri. L'iniziativa, i cui posti sono andati esauriti in pochi giorni, è organizzata dal comune con le guide della cooperativa Mondo Delfino. Ritrovo alle 20, i piccoli ospiti sono stati accompagnati alla scoperta dei tesori custoditi nel palazzo. Con un'insolita caccia al tesoro tra i dettagli e le curiosità delle opere, poi la nanna fino a questa mattina sveglia alle 7:30 e colazione tutti insieme. La guida della cooperativa Mondo Delfino, Caterina Franzil. È stata una notte bellissima, non solo per loro ma anche per i genitori, erano contentissimi, soprattutto perché avevano il museo a disposizione tutto per loro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo arrivati allo sport. Calcio, si completa domani il secondo turno della Serie A. L'Udinese giocherà alle 18:30 a Salerno. Oggi la rifinitura prima della partenza per la Campania. Per il basket Gianmarco Pozzecco è stato espulso prima dell'intervallo lungo nel secondo incontro della nazionale italiana ai mondiali Filippini-Giappone. All'allenatore triestino è stato fischiato un primo fallo tecnico a 2 minuti 40 secondi dalla fine del primo quarto. Un secondo tecnico gli è stato fischiato quando mancavano 2 minuti e 20 secondi alla fine del secondo quarto, quando è stato fischiato un fallo di sfondamento a Towns su Ricci, quindi un'azione favorevole all'Italia. L'allenatore triestino è stato costretto a uscire dal campo, rimpiazzato dal secondo Edoardo Casalone. La partita si è poi conclusa per 87-82 a favore della Repubblica Dominicana. Terza edizione ieri a Villa Manin per le competizioni di salto con l'asta, aperte a 6 categorie, dai cadetti ai seniores, sia maschili sia femminili, degli iscritti alla Federazione Atletica Leggera FIDAL. Disciplina e cornice si confondono nella loro antichità. L'evento di salto con l'asta in Villa Manin mette la spettacolarità sopra l'asticella. In 70 hanno partecipato alla terza edizione della manifestazione organizzata dall'Atletica 2000 di Codroipo. Tra le donne ha vinto Virginia Scardanzan dell'Atletica Silca Conegliano, volata a 4,20, stessa misura dell'azzurrina Great Naci Custorino, ma con un minor numero d'errori complessivo. Applausi per la Naci, vice campionessa europea under 20, nigeriana d'origine, che ha da poco ottenuto la cittadinanza italiana per poter così far parte della squadra azzurra. Tra gli uomini più in alto di tutti è andato Maureen Buscor, svizzero, salito a 5,05, stessa misura di Federico Biancoli, atletica Riccardi Milano, e del cileno Daniel Zupeuk, ma autore di un minor numero di prove nulle. A Passariano spazio anche ai ragazzi delle scuole elementari e medie, che hanno preso confidenza con l'asta e coi rudimenti tecnici della disciplina. L'evento fa parte del progetto Vola Alto con lo Sport, un percorso voluto dal CONI del Friuli Venezia Giulia e Regione per mettere in luce i valori che lo sport può esprimere nella crescita dei giovani. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questo giornale radio, redatto e condotto da Maria Spezia e Francesca Vigori, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e in redazione di Laura Sarasini. L'informazione radiofonica regionale torna alle 18:30. Grazie per essere stati con noi. Ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.